Prendi la borsa e scappi. Cosa ti costa far finta di ascoltarmi? Non ho più cercato alternativi alla tua noia. Ti sorriderò, sto bene quando te ne vai. Sei sabbia nei miei occhi. Cosa mi costa star zitto ad ascoltarti? Non ho più trovato interessante un tuo discorso. Ti sorriderò sapendo che mi lascerai. Un'estate fa ad anni luce, c'è profumo di un'estate fa ad anni luce.